Al mercato di oggi i maiali castrati e le scrofe giovani fra i 110 e i 130 kg sono scesi a $40. Le scrofe tra i 150 e i 250 sono stabili. Passiamo al bestiame da pascolo. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Oggi in piazza con me riconoscono la propria storia politica e con un punto di partenza che è la Repubblica Sociale, quindi i nostri morti sono i ragazzi della Repubblica Sociale. La legge Fornero la cancelleremo e vaffanculo alla Fornero e a chi l'ha portata al governo. Siamo mussoliniani, non vedo qual è il problema. Lei si ispira a Lenin o a Don Sturzo e noi siamo liberi di rifarci a Benito Mussolini. Si è in pericolo quando ci sono dall'altra parte degli idioti che si mascherano col cappuccio e coi manici di picconi e vorrebbero venire qua con la violenza a impedire a queste persone di parlare. Le hanno provate tutte per non far riempire questa piazza dai centri sociali agli sfigati occupa chiese e la risposta siete voi. Allora, scampoli di cronaca da Piazza del Popolo sabato a Roma. I leghisti e poi c'erano anche qualcuno che inneggiava Mussolini. Così. Tu ti ispiri a Don Sturzo e io a Mussolini. Ma sì, mettiamo tutti insieme, no? Va bene, Don Sturzo, Mussolini. È uguale, no? C'era Lenin. Allora, la marcetta su Roma titolava il Fatto Quotidiano all'indomani. E che succede alla Lega? Si è un po' radicalizzato Salvini, eh? Si è un po' radicalizzato. Sta di fatto che questa è 24 mattino e si apre oggi ufficialmente la 96esima settimana di questa legislatura, decisiva ovviamente per la riforma elettorale e decisiva per l'abolizione delle province, cari amici di Radio 24. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, abbiamo messo va pensiero perché è l'inno padano e quindi eccolo qua, un po' di vaffa di Salvini, definito da Berlusconi un grillo ma di destra. E a lei, alle 6:33 minuti possiamo aprire il Parlamento? Oh, sì, perché dobbiamo salutare intanto Federico Novella che torna con noi. Eccolo qui, subito dopo il ministro Boschi arriva Federico Novella, eccolo. Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Conduttore di Mattino 5, oggi alle 9, in diretta come sempre. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Sei in viaggio già sulla tangenziale? Tutto a posto? Guarda, sto per arrivare al famoso casello di Sesto, se vuoi ti faccio anche sentire la signorina. Che poi tua moglie si preoccupa, va bene. Esatto. Ti ha detto qualcosa? Ti ha aspettato con un randello poi settimana scorsa? No, è stata molto tollerante. Molto tollerante. Caro Federico Novella, sai chi è venuto a trovarci oggi al Parlamento? È tornato con noi, c'è Antonio Di Pietro, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a voi, a tutti gli ascoltatori. Quando è che lo inviti Novella a Mattino 5, Di Pietro? No, casomai io quando vuole, lui è già venuto l'anno scorso, abbiamo fatto una bella intervista, quando vuole siamo sempre aperti. Va bene, sempre aperti. Di Pietro, quando si candida a sindaco di Milano ufficialmente c'è un invito. Certo, se poi c'è una notizia, uno spunto del genere, tanto meglio. Certo. Bene, ma non si sa, perché Di Pietro fa un po' il misterioso, su questa cosa. Attenzione, c'è la voce della... Sì, eccola. Sì. Ma beh, facciamoglielo dire oggi che si candida. Ma non lo so, perché nicchia un po' Di Pietro. Allora, iniziamo, si candida sindaco, c'è Salvini, se no che scalpita, Ma non lo so se Salvini si candida sindaco a Milano, perché ne vuole fare tante, che alla fine, voglio dire, per qua dire là poi rimane un mucchio di moschi in mano. E lei invece? Io personalmente ci sto provando, ma come si dice... Come voglio fare le cose alla contraria di Renzi, prima lo faccio e poi lo dico, perché sta a vendere fumo, non ci sta. Sto cercando di trovare una squadra con cui essere onoro siamo sì orgogliosi di presentarle, perché se devo presentare quattro scalmanati ho già fatto questo errore, basta. Se si presenta bene. Ma quando è che scioglierà? Cioè più o meno... Stiamo lavorando, abbiamo già costituito un comitato. Ma dov'è che non la sento bene? Che vai viene... A Milano, ma sai, è qui... È a Milano! Sono vicino. Federico Novella intanto è a Milano, ecco, abbiamo una notizia. Ha costituito un comitato ed è a Milano, ecco, mettiamo... Ha costituito un pool. Ha costituito un pool. Ci può giurare. Di Pietro l'ha vista in anteprima la fiction di Sky? L'hanno chiamata per farla fiction? A dire la verità, qualcuno mi ha invitato per andarla a vedere in anteprima, ma io voglio, come si dice, valutarla positiva e negativamente il giorno dopo che lo vedono tutti. Perché sennò non va bene. Vabbè, ma qui bisogna parlare della Lega che è scesa a Roma. Allora, Di Pietro, che dobbiamo dire? La Lega, voglio dire, personalmente riconosco la chiarezza di un linguaggio e la pericolosità di un linguaggio, perché arrivare fino al punto in cui si dice, vabbè, qui mettiamo Mussolini e Dosturzo insieme, cioè, voglio dire, il diavolo e l'acqua santa, mi sembra un po' troppo esagerato. Quelli forse erano quelli di destra, erano quelli... Voglio dire, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Un po' una svolta autoritaria, visto... Ripeto, io mi sembra più una persona, diciamo, un comportamento alla ricerca del voto disperato. Oggi va di moda i partiti che cercano la protesta. Prima di loro l'hanno fatto Grillo, se vuole, la prima fase in cui ho fatto politica anch'io era così. Però io mi sono reso conto che pane e protesta una volta, due, tre, ma alla fine... Alla lunga non paga. Ma non paga non solo, ma c'è una delusione e poi la rabbia maggiore. Beh sì, all'inizio c'è da dire che i sondaggi danno la Lega e Salvini abbastanza bene, ben messi. Non so, Novella, a te piace questa idea, questa svolta, qualcuno dice di destra, autoritaria, Berlusconi la definisce appunto un grillo di destra, troppo estremista Salvini? Diverso da il Salvini della piazza, dal Salvini che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi. non è che mi piace o non mi piace, credo che sia inevitabile che lanci questi slogan dalla piazza. È chiaro che lui sta cercando di portare a casa il più possibile in questo momento, e lo sa perché non c'è alternativa a un certo tipo di politica. Cioè, se a qualcuno non piace Renzi in questo momento, diciamo che non ha molte altre alternative piuttosto che consegnarsi a Salvini. Ha ragione però Berlusconi quando dice: attenzione che se Salvini si limita agli slogan e non mi elabora un programma vero alternativo, rischia di fare la fine di Grillo. Ah, il programma credo ce l'abbia, è quello che dice sull'immigrazione, sull'euro, sull'Europa. Sì, però non l'ha affinato ancora molto, ci sono alcune parti che poi sono anche contraddittorie. Non basta dire usciamo dall'euro, usciamo dall'euro, uno può essere anche d'accordo, però su cosa facciamo dopo essere usciti dall'euro Salvini non ci ha ancora lavorato molto. Quindi deve stare attento, perché se si limita agli slogan poi fa davvero la fine di Grillo. Vediamo, perché Di Pietro è uno di quelli che ha detto che ha più paura di Renzi che di Berlusconi, quasi, più o meno l'ho colta così, Di Pietro, no? Di recente. Assolutamente sì, perché Berlusconi lo conosce, se lo conosce lo eviti, ma Renzi cagne fotte, nel senso che ti racconta la favoletta che abbiamo fatto le riforme, abbiamo fatto, però nel merito quel poco che ha fatto è quel che voleva fare Berlusconi, e soprattutto c'è tanta cosa che non ha fatto in materia di giustizia, in materia di lavoro, in materia di assistenza sociale e quant'altro. Io personalmente non condivido la politica di Renzi, perché è una politica basata soprattutto sull'annuncio di quel che farà domani. Io insisto sempre nel dire: se tu dici sempre che farai domani, sarai una famiglia senza figli. Sì, questa ce l'ha detta anche l'altra volta, eh? È novella, questa non è male. A furia di dire farò domani, la moglie resta incinta di qualcun altro. Questa è una perla di saggezza popolare volevo chiedere a Di Pietro se in Salvini non si ritrova un po' del se stesso, delle origini. Un po' è così, ce l'ha detto, Di Pietro, dai, un po' è così, su, faccia uno sforzo, anche no, se no, Salvini... Non è che faccio uno sforzo, io ho detto già un minuto fa, io a Salvini riconosco la chiarezza del linguaggio, il merito degli obiettivi che si prefigge, le contrasto, perché quindi voglio dire... Io avrò il Di Pietrese, lui avrà il suo linguaggio padano. Anche lui, per amor di Dio, salvinese. Il concetto però è un altro, che se dice noi gli immigrati li assistiamo tenendoli in mare dentro le loro barche, ma il metodo lei lo condivide, è chiaro che il linguaggio e le proposte sono diverse, visto che lei dice Renzi mi fa paura, perché sono andati in piazza a dire Renzi a casa, ma le pare normale Renzi a casa? In questo momento mi sembra che Renzi sia nel momento in cui è più in sella. Veramente Renzi è un abusivo che sta lì perché ce l'ha detto Napolitano violando la Costituzione, pur essendo Presidente della Repubblica. Ma anche lei, ma lo sceglie il Parlamento il Premier, quindi... No, ma è il Parlamento che non l'ha scelto il popolo, scusa. La maggioranza parlamentare le sceglie il popolo con la legge elettorale costituzionale. E allora, che cosa vuol dire? Se il poliziotto lo sceglie l'altro, allora il poliziotto che vai cercando è un poliziotto buono. Capito, novella, è un abusivo. Però finché abbiamo questa Costituzione che dice che il Presidente può nominare chi vuole, ammesso che abbia la fiducia, Renzi è legittimato a governare. No, poi... non è scritto così in Costituzione c'è scritto che deve nominare nell'ambito di una maggioranza scelta dagli elettori. Ma è chiaro che si vuole e tutti vogliamo la normalità sarebbe si va a votare e il Premier doveva essere tra virgolette Bersani, se uno pensava a quel punto uno poteva dire no, bisogna andare a rivotare, però dal punto di vista della Costituzione non è che lei dice ha violato la Costituzione addirittura. Poi possiamo capire che... Ma non lo dico io, l'ha detto la Corte Costituzionale. Ma dov'è che è Di Pietro? È a Milano ma non la sentiamo, ogni tanto va via la comunicazione, no, la sentiamo un po' bene, un po' male. Perché le sto dicendo... Adesso la sento bene. Ci sta Salvini, che puoi immaginare qui, ha già cominciato... A fare delle prove. Ma perché lei dice Napolitano ha violato la Costituzione con Renzi? Io dico, il presidente Napolitano, non adesso, l'ho detto, sto fuori dal Parlamento proprio per aver insistito molto su questo, che un momento in cui la Corte Costituzionale dice che quella legge elettorale con cui questi sono in Parlamento è incostituzionale, buon senso vuole che dice, sentite cittadini italiani, già che una maggioranza di governo non c'è più, la legge è incostituzionale, mi fate il favore di creare una nuova, fate le nuove elezioni in modo che io possa sapere a chi affidare legittimamente. Poteva fare così, ma non è che non facendo così è un abusivo, cioè ha violato la Costituzione, no? Per me, ma non solo una volta, più volte, perché quando si è intromesso in certe scelte del Consiglio Superiore della Magistratura, quando tutta la vicenda di Palermo, non ho capito. Capito. Uguale a tutti gli altri, devi dare la buon esempio, semmai. Se ti chiamo una persona a testimoniare, tu sei uguale a tutti, ecco, gli altri. Hai capito, novella, è questa cosa, poi il magistrato di Pietro non l'ha accettata. Quella di Pietro è una legittima critica politica, cioè sta dicendo c'è una legge elettorale che è stata giudicata incostituzionale, buon senso voleva sciogliamo il Parlamento e facciamone un altro. Invece no, Renzi è salito al potere grazie al Presidente, si è fatto votare la fiducia da un Parlamento delegittimato, tutto legale, però giustamente Di Pietro fa la sua critica politica. Quello sì. Sono d'accordo, perché Renzi dice siamo una Repubblica parlamentare, non mi devono votare i cittadini, d'accordo, però proprio per questo non mi puoi dire che hai preso il 41% alle europee e allora sei legittimato. No, la legittimazione la prendi alle elezioni italiane, non in quelle europee. Intanto, siccome dobbiamo andare a sentire il traffico, attento Federico, perché Silvio Berlusconi scendendo dalla macchina male si è rotto il malleolo. Occhio, quando apri la portiera metti giù. È colpa di Dudu. No, come colpa di Dudu? Inciampato Dudu. Ha calpestato Dudu, stia attento che gli animalisti poi dopo fanno tutto un casino. Di Pietro, se dice... questa è un'accusa infamante nei confronti di Dudu che respingo. Il difensore di Dudu, Federico Novella. No, Dudu sta benissimo, è anche alimentato molto bene, è tutto a posto, si è rotto il malleolo scendendo dalla macchina, così dicono Silvio Berlusconi. Vabbè, andiamo al traffico. 24 mattino. Criticate sempre l'inglese di Renzi. Renzi fa le sue cappelle e le fa, ed è anche bravo a farle. Milan, è un gran Milan. Ciao Alessandro, buona giornata. Ha ragione Beatore, ci vuole un po' di dittatura politica. Non può sempre uno andare a chiedere a Tizia, Caio, Sempronio se va bene quello che fa. Ci vuole così, se uno fa bene, bene, se fa male, a casa. Milan, qualcuno potrebbe dire, non io, che Olivier Toscano è un pirla, però non se la deve prendere, è risaputo, è un luogo comune, direbbe qualche magistrato. Voglio porgere le mie rassegnate congratulazioni a Renzi per come sta realizzando il programma della P2, anche meglio di come avrebbe saputo fare Berlusconi. Vecchio tifoso del Chievo e del Milan, punto. Sono uscito dallo stadio con la depressione a mille, punto. Meno male che da lunedì c'è un altro Milan che finalmente riesce a tirarmi su. Ciao Lazzaron. Ed eccoci qui, siamo con Antonio Di Pietro, questa è vera, Federico Novella, ho ricevuto, caro Di Pietro, in questo momento un messaggio da Matteo Salvini, posso? No. Ma no, sta dormendo. Giuro. È il messaggio di Matteo Salvini o di qualcuno che si è impossessato del cellulare? Che dice? Comincia a ritwittare a favore lui i tweet come l'altro. Quindi Matteo, No, un messaggio personale. La sta ascoltando Salvini. Il messaggio di Salvini è questo: giù le mani da Dudu. punto esclamativo. Giuro. Questo è benissimo. Oddio, nella sua megalomania adesso di prendersi tutta la destra, si può fregare pure il cane. No, Salvini, no. Ti vuoi fregare pure il cane a Berlusconi? Pure il cane. No, è la base di partenza per una nuova alleanza con Forza Italia. Partiamo da qualcuno, bisognerà pur partire. Partiamo da Dudu. Partiamo da Dudu. Mettiamola sul cagnolino. Vabbè, allora, Di Pietro, la questione, ma dai, l'ascoltatore che dice la P2, ancora siamo a queste storie, Renzi vuol fare il programma della P2, ma perché in Italia abbiamo questa cosa dei complotti sempre così sospinta, no? Beh, voglio dire, complotti è una parola troppo grossa, ma che quando si fanno determinate cose ci sono gruppi di persone che se le fanno e se le cantano da sole, è vero. Si sono fatte delle leggi per conto proprio, adesso sta storia delle antenne televisive, sì, Rai Way, trasmissione, un po' a me, un po' a te, mi pare che sia un altro modo per dividersi una torta grossa come una casa e per monopolizzare o fare oligopoli che poi ci rimettono tutti i cittadini. Quindi voglio dire, una cosa, il complotto è una parola alla fine troppo nobile, si tratta semplicemente di affari alla faccia di quel che è previsto anche questo nella Costituzione, cioè le regole sulla concorrenza, la trasparenza, il rispetto degli interessi collettivi, un messaggio di socialità, voglio dire. Noi non è che stiamo male adesso, più andiamo avanti l'Italia più sta meglio, a differenza di quello che si dice nelle televisioni. Prima si cercava di andare a portare 50 e 50, chi stava male e chi stava peggio. Adesso piano piano si è arrivato a 90 che stanno male e 10 che stanno peggio. Ah, ecco. La borsa è sempre 100, ma che la tieni in mano i soldi? Insomma, si spartiscono. Io pensavo fosse un modo per farla, meno persone, più denaro. Pensavo che fosse un modo per far lavorare per sempre Federico Novella, insomma, anche questa cosa delle no? Delle così. Delle antenne, così avete tutto voi, tra voi Rai, tu un posto, insomma. Chiamarlo complotto mi sembra un po' troppo. Mi pare una semplice operazione di mercato che tra l'altro non si farà perché il governo si è opposto. Si è opposto, il 51% rimanga pubblico, però forse il 51% rimanga pubblico, punto. Poi francamente qualcuno ha fatto notare l'Enel no, cioè quella cosa lì deve rimanere pubblica per il 51%. Ma guardate, se voi sapete cosa ne penso io. Penso che le privatizzazioni, sì, rispetto a certe strutture che sono rimaste pubbliche inattive, in perdita e stanno lì sfasciate, sono preferibili. Quel che non condivido è chi fa prete e sagrestano nello stesso tempo. Faccio un esempio, la Di Pietresi, che mi è capitato da ministro. Io da ministro sono stato contrario al tipo di privatizzazione da casa sua che è stata fatta all'interno del sistema ferroviario. Sì. Prendete il caso delle ferrovie. Le ferrovie detengono, io da ministro mi ci sono battuto molto su questo, detengono i binari. Sì. Poi per salvare capre e caude hanno detto liberalizziamo i treni che ci vanno sopra. Mm-hmm. Ma ogni volta tu, se c'è stato un treno dell'FS, stai tranquillo che può passarci, ma se ci metti il treno Italo o altri 1000 treni, aspetta che passo prima io. Capisci a me è arrivata alle 6:54, è arrivata il capisci a me. Federico, cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo privatizzare, ma dobbiamo togliere i monopoli di chi poi può controllare, può controllare questo. Qui nel caso delle antenne il problema è semmai da una parte il conflitto di interesse in cui si verrebbe a trovare chi già ha tutte le antenne private, ma dall'altro soprattutto le strutture fisiche. Sì. Non puoi dire tu ci tieni tutte le strutture fisiche e poi ti tieni pure no, ma è chiarissima la posizione di Di Pietro, è chiara. Federico, di che parli alle 9 che dobbiamo chiudere? Ma parliamo di questo brutto caso di cronaca, sai, la bambina che a Milano a 9 mesi è stata trovata morta per questioni ancora poco chiare, insomma è una situazione di grande disagio che forse potrebbe rappresentare un po' il disagio estremo di alcuni italiani in questi tempi di crisi. crisi. Parlate di questo, ma non toccate Dudu, come è arrivato il monito di Salvini. Grazie a Federico Novella, Mattino 5 alle 9 e Antonio Di Pietro, alla prossima. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, cari ascoltatori. La 96esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province è cominciata. È cominciata e noi attendiamo fiduciosi, perché se arriva fino a venerdì e potrà succedere qualcosa, essendo la settimana decisiva numero 96. Attendiamo. Intanto oggi avremo un menù ricco di ospiti e di temi. Alle 8.15 parleremo con il presidente anticorruzione Raffaele Cantone. E parleremo soprattutto di questa pratica, il whistleblowing. Dice: siete matti, parlate in italiano, che c'è anche una petizione. I fischiatori, soffiatori nei fischietti, insomma la possibilità di denunciare dei colleghi corrotti. Questo è molto in voga nel mondo anglosassone, in Italia prende piede poco alla volta. Insieme a Raffaele Cantone avremo ospite anche Giorgio Fraschini, che si occupa da anni di questo tema, collabora anche con Transparency International. Ne parleremo alle 8.15. Avremo ospite poi il presidente della Lombardia, Roberto Maroni, alle 8.40, per parlare anche ovviamente di Lega, dell'attualità politica, visto che sono giorni importanti anche sul fronte veneto, e tra poco lo vedremo leggendo i giornali. Allora tuffiamoci in questa lettura dei giornali che trovate in edicola. Avanti. È lunedì 2 marzo, intanto le aperture. Il Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì apre sui paradisi fiscali, cambia la mappa dei paradisi, si chiude il periodo per siglare le intese che agevolano la voluntary disclosure. Questo è il titolo di apertura. Abbiamo sentito già anche il nostro Mauro Meazza, sentito un pochino abbattuto, chissà perché, glielo chiederemo poi alle 8.45, mi sembrava con un tono un pochino più dimesso Mauro Meazza, vabbè, vedremo. Comunque, per il Corriere della Sera, la battaglia della rete Telecom, più tempo per sostituire il rame, un piano da 6 miliardi per la banda ultralarga, così il messaggero Telecom pressing del governo. Mentre Repubblica, l'attualità politica, il centrodestra si spacca, rissa su Salvini, questo è il titolo di prima pagina. La Stampa invece, voglio partire da qui, l'opposizione sfida Putin, ora non ci fai più paura, così il Giorno. Mosca sfida Putin. Sono decine di migliaia di persone che ieri hanno sfilato a Mosca dopo l'uccisione di Boris Nemtsov, che è considerato uno dei leader dell'opposizione, ucciso. C'è anche un video che è stato diffuso in rete, si vede proprio il sicario che lo avvicina, una telecamera per la verità che riprende da molto lontano, una telecamera fissa che lo avvicina sul ponte dove camminava con la fidanzata e lo fredda con dei colpi di pistola per poi scappare su una macchina. Ora tutti guardano a Putin. Oggi è interessante l'editoriale di Angelo Panebianco in prima pagina del Corriere della Sera. Scrive Panebianco: se esistesse un indice di moralità politica applicabile alle tirannie, Benito Mussolini otterrebbe un punteggio più alto di Vladimir Putin. Mussolini, dopo il delitto Matteotti, se ne assunse la responsabilità. Putin, invece, di fronte all'omicidio del suo avversario Boris Nemtsov, ha saputo solo parlare di provocazione, come peraltro è avvenuto in occasione di altri omicidi di oppositori del Cremlino. I simpatizzanti che Putin può annoverare in Italia dovrebbero porsi qualche domanda. A destra lo dovrebbe fare Berlusconi, amico personale di Putin, e così come Salvini. A sinistra il compito spetterebbe a molti, a cominciare dalla Mogherini e dallo stesso Renzi, sempre molto comprensivi per le esigenze russe nella crisi ucraina. È necessario, scrive Panebianco, che gli amici di Putin ci pensino su prima di continuare a fiancheggiarlo. Devono riconoscere la pericolosità di quel regime per ciò che fa agli oppositori interni, per il fatto che negli obiettivi della sua politica estera, oltre all'espansionismo territoriale, c'è anche il condizionamento da esercitare sull'Europa tramite i suoi amici politici greci, italiani, francesi, tedeschi. Piuttosto che stendere tappeti rossi davanti al nostro vicino di casa, come l'ha definito la Merkel, è meglio rendersi conto della sua pericolosità e chiudere i buchi della rete divisoria che ci separa dal suddetto vicino. Significa adottare una postura più decisa nella crisi ucraina e pensare a come diversificare al meglio gli approvvigionamenti energetici in modo da renderci meno esposti ai suoi ricatti. Dunque Panebianco prende molto le distanze da Putin, anche se ovviamente tutti guardano a Putin, ma Putin ha definito una provocazione questo assassinio e non è che ci sono le prove, non è che ci siano prove di chi sia stato e chi l'abbia commissionato. Beh, certo, è interessante anche leggere la dinamica di Maria Serena Natale a pagina 5 del Corriere: lo spazzaneve, l'auto, la pistola, cosa sappiamo del delitto Nemtsov. Tra l'altro tutti guardano anche al ruolo della fidanzata ucraina, molto molto più giovane di lui e di nazionalità appunto ucraina, e secondo alcuni, hanno cominciato a dire, informatrice dei sicari. Hanno fatto notare che i sicari sono arrivati, hanno sparato 5 colpi a lui, lasciando assolutamente lei senza fare nulla, ecco. È Anna Duriskaya, 23 anni, era con Nemtsov quando è stato ucciso. Anche Repubblica fa notare a pagina 3 qualche contraddizione. Per esempio, interrogata dalla polizia, Anna Duriskaya dice che nell'interrogatorio che hanno sparato da una macchina in corsa, mentre poi si è visto dal video che è arrivato proprio un sicario a piedi e poi ha sparato ed è fuggito. Certo, però, smentita dall'evidenza, Anna ha detto di essere confusa e sotto shock, e questo è anche comprensibilissimo visto quello che è successo. Però certamente ci sono tanti tanti misteri, tante letture. Intanto Renzi sarà a Mosca, prima in Ucraina e poi a Mosca nella settimana, e ha fatto sapere che si deporrà un fiore, andrà a deporre un fiore nel punto in cui Nemtsov è stato ucciso. Non è certo ciò che chiede Panebianco nell'editoriale del Corriere della Sera, evidentemente un semplice fiore, ma un cambio di passo di politica da parte dell'Italia nei confronti della Russia. Staremo a vedere. Oh, vi voglio segnalare, per venire a cose italiane, 3 articoli molto interessanti. Il primo è questo, riguarda la scuola. Il nostro spesso ospite, maestro, Alex Corlazzoli, scrive una bella pagina sul Fatto Quotidiano dal titolo "Alzi la mano chi ha internet". È un esame della scuola italiana, dello stato della scuola italiana, la sconnessione digitale, non la connessione, ma sconnessione. Quasi in una scuola su 2, nel 46%, la connessione non raggiunge le classi. Alle elementari la percentuale scende, pensate, all'11%, e non ci sono cambiamenti in vista, dice e scrive Corlazzoli. All'istituto comprensivo Gramsci di Campo Nogara, in provincia di Venezia, i tablet alla classe quinta B del plesso Don Milani li hanno comprati i genitori. Alla Diaz di Ponte Amensola, Firenze, hanno vinto un bando da 10.000 euro per l'acquisto di tablet e lavagne multimediali. Una bella notizia! Solo che poi, quando sono arrivati gli strumenti, mancava qualcosa: il cablaggio e la rete Wi-Fi. Al Mamiani di Roma la preside ha fatto un appello pubblico e sono arrivate da una nota marca di computer 50 postazioni per ragazzi. Insomma, questi sono alcuni dei racconti da cui parte Alex Corlazzoli sul Fatto, per raccontare come nel piano della buona scuola presentato dal premier Renzi e dal ministro Giannini si parla di coding, di promuovere un nuovo modo di insegnare l'informatica a partire dalla scuola primaria, ma intanto a oggi, secondo dati del ministero, solo il 10% delle nostre scuole elementari e il 23% di quelle secondarie è connesso a internet con la rete veloce. Le altre sono collegate a velocità medio-bassa, con situazioni molto differenziate e spesso sufficienti a mettere in rete solo l'ufficio di segreteria o il laboratorio tecnologico. Quasi in una scuola su 2, cioè nel 46%, la connessione non raggiunge le classi. con queste premesse insegnare l'informatica senza neanche avere gli strumenti per insegnarla risulta quantomeno complicato. Ma sentite qui, veniamo al tema giustizia. Questa fa arrabbiare, lo so, fa arrabbiare. È Silvia Barocci che ne parla sul Messaggero, l'ho trovata solo su questo giornale la notizia. Lo Stato è stato condannato per un errore giudiziario. E perché fa arrabbiare? Perché l'errore giudiziario è stato fatto a Catanzaro nel 2004, quando PM era Luigi De Magistris, oggi sindaco di Napoli. Lo Stato dovrà pagare per l'errore giudiziario dell'ex PM De Magistris. L'ultimo caso di responsabilità civile con la vecchia legge Vassallo prima delle nuove Vassalli prima delle nuove norme è questa. Un errore perché allora De Magistris, con la firma peraltro del procuratore capo di Catanzaro Mariano Lombardi, fece una perquisizione a Paolo Antonio Bruno, magistrato di Cassazione, perquisito e indagato per concorso in associazione mafiosa. È stato riconosciuto con sentenza l'errore giudiziario inescusabile, e così lo Stato dovrà risarcire con 22.400 euro, anzi con le rivalutazioni Istat siamo a 26.000 euro, questo magistrato. Chi lo farà? Lo farà lo Stato, ovviamente tutti noi. Poi si rivalerà su De Magistris? Questa è la domanda che si fa il Messaggero con Silvia Barocci. Per ora 26.000 euro da pagare. A proposito di conti, multe, soldi che lo Stato deve avere e non incassa, eccoci qui. Questo vince il premio Mani sul volante di oggi, se siete alla guida, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. E mi raccomando, anche gli oggetti contundenti. Poi dopo tra moglie e marito partono i coltelli per sbaglio, per la rabbia, non ho mica... Danni allo Stato, condanne per 5 miliardi. Sapete quanti soldi di questi 5 miliardi lo Stato riesce a recuperare? 68 milioni. È Sergio Rizzo sul Corriere della Sera che parla, scrive a pagina 21 quella che è definita una bella presa in giro. Questo ti viene da pensare dopo aver scoperto che negli ultimi 6 anni lo Stato, le amministrazioni locali, le società pubbliche hanno recuperato appena l'1,4% della somma delle condanne della Corte dei Conti per danno erariale. Ebbene sì, la Corte dei Conti ha dato multe per 5 miliardi di euro. Di questi 5 miliardi sono stati recuperati l'1,4%, ma l'1,4% è nulla. Appena 68 milioni. Non hanno pagato i ladruncoli della cosa pubblica, non hanno pagato gli amministratori incapaci o infedeli, non hanno pagato gli evasori pizzicati a frodare il fisco, i corrotti, i politici abituati a trattare il denaro di tutti come il denaro di nessuno. Tutto ciò è inaccettabile, scrive Sergio Rizzo. Il fatto è che dopo aver emesso la sentenza di condanna, la magistratura contabile non ha più alcun potere sulla sua esecuzione materiale. E dunque la Corte dei Conti condanna, ha messo insieme 5 miliardi di condanne e poi sono stati recuperati l'1,4%, 68 milioni. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. AM7, il pallone d'oro dell'informazione. Ah, AM7 sarei io. E io dicevo, come CR7. Grande AM7, come Cristiano Ronaldo. AM7. Grazie ascoltatore caro e mio e nostro amico. Veniamo alla politica, a raccontare la politica che vede certamente la notizia, una delle notizie più importanti, oltre a quella della Lega che tra poco vedremo e le polemiche che ne sono seguite, le primarie del PD. In Campania sui giornali non troverete l'analisi di chi ha vinto, perché nella notte Vincenzo De Luca dovrebbe avere vinto, dovrebbe perché è in testa di poco. e al 52%. Secondo voi, vi faccio una domanda così, partiranno ricorsi, contro ricorsi? Certo che partiranno, accuse di brogli eccetera, nelle primarie è sempre stato così. Comunque in campagna dovrebbe aver vinto Vincenzo De Luca, tra l'altro si è votato nelle primarie delle Marche, anche per il PD meno importante dal punto di vista dei mezzi di informazione, comunque ha vinto Luca Ceriscioli su Pietro Marcolini nel PD, ma nella campagna la polemica è stata per l'invito di Roberto Saviano a non andare a votare. Ha fatto proprio così un tweet: non votate, c'è il rischio di voto di scambio, tanto che Roberto Saviano oggi viene intervistato dalla Repubblica, Concita Sannino lo intervista a pagina 11 e dice: il mio invito a disertare i seggi è lontano dal nichilismo di Grillo, volevo però fermare le clientele. Non è una scivolata nell'antipolitica, dice Saviano, nessuna caduta nichilista. Non mi imbarazza il fatto che Grillo abbia condiviso il mio invito a non partecipare a queste primarie, ma certo siamo distanti su altre cose con lui e il Movimento 5 Stelle. Però l'invito su Facebook, domani non andate a votare in campagna, questo è il mio consiglio, ha fatto molte polemiche. E allora spiega Saviano: ogni generalizzazione reca il pericolo di una forzatura. Io non dico che tutti coloro che sono andati a votare lo hanno fatto per voto di scambio, ma continuo a pensare che queste primarie restino un fallimento perché hanno lasciato in campo due nomi, De Luca e Cozzolino, legati alla storia degli ultimi 20 anni di una regione segnata da sperperi, madornali errori come quello delle ecoballe, un uso assurdo dei fondi europei. Ma certo non è pensabile che tutti quelli che sono andati a votare lo hanno fatto per avere qualcosa in cambio. Penso che una buona parte appartiene a quella fascia, ma tanti altri hanno voluto partecipare perché credevano in quel candidato o perché è prevalsa la logica del meno peggio. Comunque dice: appartengono De Luca e Cozzolino alla campagna degli ultimi 20 anni. 20 anni colmi di contraddizioni, mala gestione, sperperi, tutto questo secondo me, insiste Saviano, perciò le primarie dovevano evitarlo e invece lo hanno riproposto. Comunque, il voto tra le polemiche, anche il titolo del Messaggero a pagina 5 per l'invito di Saviano a non andare a votare, pare che abbia vinto Vincenzo De Luca in campagna. Già nella notte, credo alle 2:40, De Luca ha parlato col tono del vincitore, ma ripeto, oggi secondo me sarà una giornata in cui vedremo i risultati finali e eventuali contestazioni. Mentre le polemiche ci sono e continuano dopo la manifestazione della Lega a Roma in Piazza del Popolo, polemiche di vario tipo. Intanto le polemiche con Berlusconi. La Lega avverte ancora Berlusconi in Veneto l'ipotesi del commissario. Questo è il titolo di pagina 14 del Corriere della Sera. Le polemiche con Berlusconi le vedremo tra poco. Intanto ci sono le polemiche interne. Oggi c'è il Consiglio federale della Lega, credo alle 13, e lì si potrebbe decidere il commissariamento della Liga Veneta, cioè della Lega in Veneto. Sapete chi è il segretario? È Tosi, Flavio Tosi, il sindaco di Verona. Insomma, lì si potrebbe arrivare alla rottura definitiva tra la Lega e Tosi, accusato di non appoggiare abbastanza Luca Zaia in Veneto. Tra l'altro noi avremo ospite Roberto Maroni alle 8:40, ricordate. Oggi Tosi fa un'intervista a Repubblica. Intervistato a pagina 7 da Rodolfo Sala, dice: è inaccettabile esautorarmi, se succede sono pronto a tutto, ho già subito troppi torti, il commissariamento sarebbe inaccettabile, non voglio fare alcuna ipotesi, ma una cosa è certa: per il commissariamento non ci sono i presupposti, nella Lega ci vuole rispetto reciproco, in passato io ho fatto parecchi passi indietro. Poi insiste: bisognerebbe spiegare perché Tosi dà fastidio, perché darebbe fastidio una lista con il mio nome alle regionali del Veneto, non porterebbe via consensi alla Lega, farebbe solo crescere la coalizione. Se a Verona non avesse avuto con me le civiche, io sarei stato sepolto. E poi torna sulla vicenda di sabato della manifestazione della Lega e dice Tosi: il messaggio è quello di una Lega che si sposta troppo a destra e abbandona il tema centrale del federalismo. Su questo spostamento a destra interviene nella stessa pagina con un'intervista del capogruppo del PD Roberto Speranza. Ha fatto molto scalpore in alcuni, vedere anche gli esponenti di Casa Pound, ma anche alcuni con croci celtiche, inneggianti al fascismo, a Mussolini, li abbiamo sentiti anche in audio alle 6.30 nella piazza leghista. E allora Roberto Speranza, capogruppo del PD alla Camera, intervistato da Repubblica, dice: la piazza col Duce è oltre i limiti, la sinistra deve reagire. Per la verità, chi reagisce dopo la manifestazione della Lega è anche Berlusconi. Berlusconi che, tra l'altro, attenzione, ha il malleolo fratturato, è sceso male dalla macchina, così ha detto il suo medico Zangrillo, e mettendo male il piede scendendo dalla macchina si è procurato una frattura al malleolo. E dunque un Berlusconi che scalpita, secondo Mario Aiello sul Messaggero, pagina 7, lo sfogo dell'ex cavaliere è questo: i pazzi non li sopporto più, o finisce la pazzia o me ne vado e non si salverà nessuno. E tra l'altro Aiello fa sapere che Berlusconi da tempo predilige l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, ma quella è un'altra storia, è una questione letteraria. Qui nell'ottica di Berlusconi la pazzia è della Lega, Salvini sta giocando la partita per Renzi, Salvini è il grillo di destra, Salvini è un estremista. Questi sono alcuni dei giudizi dati da Berlusconi a chi l'ha sentito dopo la manifestazione di Piazza del Popolo. E poi la follia è anche all'interno, no? Fitto, i fittiani, insomma le solite cose, puntata numero 8343 della telenovela all'interno di Forza Italia. Sembra addirittura che invece sulla Lega, nuova follia, nuova pazzia, da sabato, da qualche giorno, Berlusconi abbia chiamato o provi a chiamare Maroni e Zaia, lo chiederemo a Maroni, dicendo: fatelo ragionare, fate ragionare Salvini. Questo è Berlusconi, un Berlusconi che anche per Tommaso Ciriaco su Repubblica pagina 6 pensa davvero che Salvini non possa rompere il patto con il centrodestra, altrimenti me ne vado, crolla tutto. Come detto, Berlusconi che ha il malleolo rotto, e oggi su questo è straordinario. Gene Gnocchi in prima pagina della Gazzetta dello Sport: dopo l'infortunio al malleolo, Renzi ha soprannominato Berlusconi il pato del Nazareno. Per chi ama il calcio e ricorda Pato, ecco, forse però chi non ama molto il calcio è Mauro Meazza. Butta dentro Ilicic, c'è Salah al limite dell'area di rigore, palla tagliata, Handanovic, Salah, 1-0 Fiorentina. Mauro, buongiorno. Buongiorno, vedo che Peter si è scatenato questa mattina. Sì, è colpa sua. Una ricerca. Ma senti, volevo dirti però, sulle multe invece vince Milano. Ecco, guarda, io lo pensavo, avevo questo sospetto da un po' di tempo. Come, e effettivamente oggi il Sole 24 Ore certifica che... Sì, certifica che per la classifica delle multe Milano risulta la città più esosa per patentato. Oh, 176 eurini di incassi 2014 in euro per patentato. Leggetelo oggi, leggete il Sole 24 Ore, le multe in tutte le città d'Italia, Milano la più esosa. E supera Firenze, tra l'altro, che accusa anche un calo rispetto all'anno precedente del 3,5%. Però altre città migliorano invece le loro performance, per così dire. Cioè si paga meno. No, si paga di più. Si paga di più. Migliorano in quel senso le loro performance, anche perché nella pagina accanto ti raccontiamo i dolori della riscossione comunale, che, come dire, non è che brilli. Cioè, ci sono alcune zone in cui funziona, altre dove funziona molto meno, ma tutti i dettagli, caro mio, tra Milano e Firenze, appunto prima e seconda, sulla classifica delle multe, però non sul campo, li trovi sul Sole 24 Ore di oggi. Volevo dirti, lo sai che mancano 60 giorni all'Expo? Non è una cosa, hai cominciato a vedere il guardaroba, se sei in ordine. Addirittura. Ma viene qui un sacco di gente. I padiglioni li stanno ultimando. Tra l'altro, scriviamo oggi sul Sole, è più avanti l'Angola nella preparazione che non l'Olanda. C'è una specie di classifica, per così dire, dei paesi che si sono più portati avanti, e la trovi sul Sole 24 Ore di oggi. C'è appunto una una classifica un po' rovesciata rispetto a quello che ti aspetteresti. E poi i tuoi due urini, dove vuoi metterli? Ti diamo la nuova mappa dei paradisi fiscali, caro sì. Alessandro. Ho sentito che ti sei prodigato nel giornale radio, sentivo infatti che avevi un tono un pochino più... Non so bene a cosa tu ti riferisca, però ti appiglio di stare fermo con il file, per piacere, perché poi mi innervosisco. Resto nervoso tutta la settimana. No, ti abbiamo fatto aggiornato la mappa dei paradisi, perché oggi si chiude la particolare finestra per siglare le intese. Aspettiamo Monte Carlo e c'è la nuova mappa. La trovi oggi sul Sole 24 Ore, dove tra l'altro parliamo anche delle sentenze, delle decisioni sul part time, una cosa molto importante specialmente in tempi di Jobs Act, e parliamo anche di quanto può valere questa diatriba o diatriba, non so come preferisci l'accento, sarebbe diatriba, sì, però secondo me diatriba non è così sbagliato, vabbè, no. Comunque non facciamone una questione di accenti sulle i e non di puntini sulle i, questa contesa sugli immobili, sul trasferimento degli immobili non abitati. Secondo le nostre stime, 250.000 immobili ogni anno. E poi ti volevo dire, per anche sintonia con le prestazioni calcistiche della mia, ma un po' anche della tua squadra, che da domani vendiamo i libri di letteratura horror. Non so se alleghiamo anche le cassette delle prestazioni dell'Inter, ma anche del Milan, sì, secondo sì. me. Comunque, da domani con il Sole 24 Ore i capolavori della letteratura horror, magari uno potrebbe mettersi in sottofondo anche qualche sciagurata conclusione ieri di Icardi in curva da posizione favorevole. Bene. Va bene. Alessandro Milan, il forno olandese dell'informazione. Cos'è che ha detto Alfa? Il forno olandese dell'informazione addirittura. Va bene, allora, il governo è sul tema Jobs Act, citato prima da Mauro Meazza, c'è una pagina interessante su Repubblica, è firmata da Federico Fubini e Roberto Mania. Il governo ingaggia i sindacati nel Jobs Act, se piazzano i disoccupati il servizio è retribuito. Il titolo un po' confuso, ma il tema è questo: c'è una nuova vocazione per i sindacati nel ruolo di agenzie remunerate dallo Stato e impegnate a reinserire i disoccupati in nuovi posti di lavoro, se necessario operando in regime di concorrenza aperta con multinazionali del settore come Manpower o Adecco. Manca solo la firma del Presidente della Repubblica Mattarella perché nei prossimi giorni entri in vigore la prima fase della riforma del lavoro, e tra i cantieri aperti uno è certamente destinato a riaprire il confronto tra Palazzo Chigi e i sindacati. Si tratta di questo: entro l'inizio di maggio il governo deve approvare il nuovo assetto delle politiche attive, le strutture destinate a prendere in carico i disoccupati e aiutarli a trovare un nuovo impiego, ed è su questo fronte che a Palazzo Chigi si sta preparando un'offerta ai sindacati. Anch'essi, insomma, anzi soprattutto loro, potrebbero operare come vere e proprie agenzie per l'impiego e incassare il premio previsto per ciascun ricollocamento riuscito di un disoccupato. La sola condizione è che l'impiego sia assicurato in base al nuovo contratto a tutele crescenti. E poi va avanti l'articolo a spiegare dunque i sindacati che potrebbero diventare come delle vere e proprie agenzie di collocamento e guadagnare su questo se riescono a piazzare, questo c'è nel titolo, cioè a dare nuovo lavoro ai disoccupati. E questo però si materializzerà nei prossimi mesi. Mentre domani c'è un Consiglio dei Ministri importante in cui si discuterà il piano Ring sulla rete italiana di nuova generazione. È tutto in mano, come succede spesso, a Matteo Renzi. Il caso ormai è diventato politico, scrive Massimo Sideri sul Corriere della Sera, rete veloce spinta del governo su Telecom. Dal punto di vista tecnologico non ci sono dubbi che sia necessario intervenire, il problema è come. I ritardi sull'agenda 2020 dell'Unione Europea, le classifiche sulla velocità di connessione e le sottoscrizioni su dei contratti di banda larga sono numeri dai quali non si sfugge. Però, d'altra parte, la rete in rame di Telecom Italia, che ha 27 anni, e le misurazioni della società specializzata Akamai, di cui la GCOM è a conoscenza, dimostrano che la qualità delle centraline con connessioni in rame crollano con il maltempo. Tutto questo fa capire che bisogna intervenire. Ma come si interviene? Beh, qui c'è il piano politico e ci sono le divisioni politiche. Domani ci sarà il piano per la banda larga. Sull'infrastruttura la società occupa, la società Telecom, 20.000 dipendenti, incentivi e investimenti per 6 miliardi previsti, ma oggi sul Corriere della Sera c'è il ruolo del vice segretario della presidenza del Consiglio Raffaele Tiscar, che è colui che ha pianificato tutto uno studio. C'è la mediazione di Andrea Guerra, ruolo di Andrea Guerra, che da poco è diventato un consigliere di Matteo Renzi e che, secondo il Corriere della Sera, in realtà ha preso in mano un po' le redini del piano banda larga. Domani verrà svelato, staremo a vedere, ma certo alcune anticipazioni sono importanti e le trovate sul Corriere della Sera. Vi voglio segnalare come cronaca l'inchiesta del Giornale a pagina 13 e 14 sul grande affare dei profughi. Ci si concentra sui boom di ricorsi fatti da onlus e avvocati che sfruttano molto spesso il gratuito patrocinio e costituiscono la principale fonte di sostentamento di un numero consistente di avvocati. Questi ricorsi per i profughi, spesso fatti, racconta il Giornale, con ricorsi fotocopia, con la tecnica del copia e incolla, in genere tra gli 800 e i 1000 euro, questo è ciò che prende un avvocato per questo tipo di ricorsi. Certo, la spesa totale di tutti questi ricorsi, secondo il Giornale, è di 61 milioni di euro l'anno. Quindi tribunali intasati dalle cause dei profughi sui quali lucrano, dice il Giornale, le onlus e gli avvocati. Va bene, vi interessa sapere che Madonna è ritornata in Italia? Ieri ha registrato un'intervista con Fabio Fazio, che andrà settimana prossima, con un seguito di 58 persone? No. La carta costa? No, lo sapevo. È arrivata anche sul Corriere, a pagina 25, il vestito di questa cantante folk scozzese che il mondo si chiede se lo vedono blu e nero, bianco, oro, bianco, dorato, il trionfo della chiacchiera globale, c'è anche nel titolo del Corriere della Sera. No, il vestito, avete visto questo dibattito del vestito che gira su internet? Come lo vedete voi? Di che colore? Blu e nero oppure lo vedete bianco e dorato? Ma chi se ne frega! Mattino. Siamo qui, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8 e 20 minuti. L'ultima in ordine di tempo è stata l'Agenzia delle Entrate. La scorsa settimana la presidente Orlandi ha scritto una circolare e ha invitato i propri dipendenti a denunciare i colleghi corrotti. Insomma, se avete il sospetto che un vostro collega faccia pratiche illecite, denunciatelo, fate una soffiata. Uso questo termine perché in inglese tutto questo ha un nome, whistleblowing si chiama, cioè letteralmente proprio significa soffiare nel fischietto. È una pratica molto in voga nel mondo anglosassone. E per muoversi, tra l'altro, non serviranno prove certe, basterà il fondato sospetto e un dipendente può denunciare un collega. Tutte queste denunce potrebbero essere anche mandate direttamente all'autorità anticorruzione, di cui è presidente Raffaele Cantone, che saluto. Buongiorno Cantone, ben trovato. Buongiorno a lei. Denunce, è una pratica che finora è in voga in Italia o non molto? Non molto, per la verità. È stata introdotta dalla legge Severino, che ha modificato una norma del testo unico degli impiegati civili dello Stato, ma si tratta di una pratica che ha difficoltà di attecchire per varie ragioni. Magari qualcuno ce le spiega tra poco. Intanto mi dica se lei è favorevole a questa la possiamo chiamare delazione? Delazione sembra avere un termine. Non sono d'accordo nel chiamarla delazione, sono favorevole purché si spieghi bene il contenuto. Non si tratta di nessuna denuncia anonima, si tratta semplicemente di un dovere civico di collaborazione da parte di chi è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Si dice però che chi la fa è garantito per lui l'anonimato. Questa cosa in Italia secondo lei sarà praticabile ed è praticabile? Guardi, più di tutto non è garantito l'anonimato, è garantito la riservatezza, che apparentemente è una differenza di poco momento, ma invece è una differenza molto rilevante, nel senso che significa questo, cioè se io denuncio utilizzando questa norma, il mio nome non deve emergere dalle attività svolte dalla pubblica amministrazione, a meno che non si tratti dell'unica prova a favore di del dipendente medesimo, cioè io per esempio denuncio un comportamento scorretto di un altro dipendente. Se sulla scorta della mia denuncia l'autorità amministrativa dovesse raggiungere elementi, per esempio per esercitare l'azione disciplinare, deve tacere il nome del soggetto che ha fatto la denuncia. Ma se si tratta di un unico elemento a favore del dipendente, viene meno anche il dovere del diritto alla riservatezza. Quindi noi abbiamo un meccanismo che garantisce solo in parte la riservatezza e la garantisce sempre che, attenzione, quella denuncia non integri gli estremi di una diffamazione della calunnia. Ah, cioè, se quella denuncia è fatta artatamente per fare un danno, ovviamente nessuna riservatezza. A quel punto si ritorce contro chi l'ha fatta, ovviamente. Perfetto. Quindi ci sono limiti molto chiari alla riservatezza. Diciamo che questa norma nasce con un obiettivo che non è quello di tutelare la delazione anonima, nasce per evitare purtroppo pratiche che negli uffici si verificano spesso, quali la mobbizzazione di chi eventualmente denuncia illeciti. Devo dire questo è un elemento che si verifica spessissimo nelle amministrazioni non solo pubbliche ma anche private. Questo è un punto centrale da evitare, perché la Presidente Orlandi ha detto, nel caso delle agenzie delle entrate, ma vale in tutti i casi, bisogna evitare che la persona che denunci poi subisca, che ne so, demansionamenti, mobilizzazioni. Questa è la ragione della norma. La ragione della norma è tutelare chi, tutto sommato, assumendosi una responsabilità di fare il proprio dovere, potrebbe avere un danno. Mi faccia capire però perché non attecchisce e non attecchita abbastanza. Ma guardi, non attecchisce per varie ragioni, un po' per un fatto culturale, perché, come lei diceva, è persino difficile trovare un nome, no? Lo stesso tentativo di considerarlo soffiate, delazioni, di qualificarlo in questo modo, è la dimostrazione di quanto ci sia una valenza un po' negativa in questa opzione culturale. Poi devo dire, la normativa tutela in modo molto meno forte di quanto potrebbe sembrare. Per esempio, se io denuncio il comportamento di una persona e quel comportamento integra gli estremi di un illecito penale, è evidente che qualunque autorità amministrativa avrà l'obbligo di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica. Sì. E a quel punto viene meno ogni riservatezza. E poi in realtà questo meccanismo di tutela del mobbing è molto farraginoso, perché in realtà non c'è un meccanismo né un'autorità, per esempio non spetta a noi fare verifiche su come venga tutelato il soggetto rispetto al mobbing, spetta al Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale dovrà monitorare questa situazione. Quindi voglio dire, non ci sono meccanismi così evidenti, bisognerà che si formi anche una prassi, soprattutto nei tribunali, per capire se per esempio i meccanismi anti-mobbing funzionano. E poi l'altro passaggio è che la riservatezza non viene assolutamente tutelata quando gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica. Questo è un altro punto nodale. E poi? E poi c'è un terzo passaggio che ovviamente devo dire sul quale io ho delle riserve. In molti paesi stranieri questo atteggiamento, cioè questo comportamento, viene anche premiato, non solo tutelato. In molti paesi, soprattutto di origine anglosassone, è prevista una percentuale, mi faccia passare un termine antipatico, ma per capirci, una sorta di taglia su quanto lo Stato, per esempio, recupera attraverso le soffiate, le delazioni. Negli Stati Uniti ci sono avvocati che hanno fatto la loro fortuna difendendo i soggetti che collaborano con la giustizia, per esempio in materia di evasione fiscale. I soggetti che consentono allo Stato di recuperare utili all'evasione fiscale hanno diritto una percentuale. Sì, in Italia, il nostro sistema, l'idea è proprio, come dire, il concetto ha parlato, e questo ha parlato spesso viene visto in maniera negativa, ha un'accezione negativa. Perfetto. Nel nostro sistema non si aspetterebbe mai un meccanismo del genere, però quei sistemi hanno consentito negli stati anglosassoni grandi risultati. Guardi, Cantone, mi faccia salutare un ospite che di questo si occupa da anni, si chiama Giorgio Fraschini, si occupa da anni di whistleblowing. Fraschini, buongiorno. Buongiorno. Lo chiamiamo così, è vero, non c'è un termine in italiano corrispondente, no? Tra l'altro lei è collaboratore di Transparency International Italia. nel mondo anglosassone questa pratica ha molto attecchito. Perché? Il mondo anglosassone, come diceva anche il presidente Cantone, c'è una cultura totalmente diversa. Ecco, poi chiamarlo mondo anglosassone è un po' strano, nel senso che ad esempio l'approccio dell'Inghilterra rispetto all'approccio degli Stati Uniti è diversissimo. Questa taglia o ricompensa per i segnalanti, ad esempio, è un concetto più americano che inglese. La legge inglese. Ma c'è più nel privato o nel pubblico? Perché anche le multinazionali hanno queste pratiche, mettono in pratica queste cose. Beh, in Italia, come ha detto anche il Presidente, esiste solo una norma, una singola norma per il settore pubblico. In realtà in altri paesi le norme sono un po' più complete, specialmente poi per i fatti di corruzione. È un po' strano che la norma esista solamente per il settore pubblico e non anche per il settore privato. Lei però, Fraschini, c'è anche un sito, ha messo in piedi un sito, whistleblowing.it, credo sia così. Ecco, se non sapete come si dice, come si scrive whistleblowing, applicatevi, comunque lo trovate. Magari scrivete una mail a noi 24mattino@radio24.it e noi vi diremo come si scrive whistleblowing. E lei raggruppa anche tutta una serie di casi italiani in cui questa soffiata è avvenuta. Ce ne può citare alcuni? Sì, beh, non la chiamiamo segnalazione, soffiata, ecco. Sì, i casi sono diversi. Adesso, ad esempio, nell'ultimo anno noi abbiamo aperto, come Transparency International Italia, un servizio che si chiama Allerta Anticorruzione. Noi riceviamo le segnalazioni di whistleblower o cittadini che vedono che qualcosa non funziona all'interno del loro ente e decidono di segnalarlo. E a vario livello, a volte hanno già segnalato, a volte vogliono segnalare, vogliono capire un po' dove andare. So, ad esempio, un caso particolarmente interessante che abbiamo ricevuto è quello di un membro di una delle autorità di polizia che aveva segnalato la presenza di sostanze tossiche, che poi si rivelarono eterni, su un sito confiscato a cui lui e i colleghi accedevano quotidianamente. Sì. Inoltre il sito era in prossimità di abitazione di una scuola materna e quindi questa persona si era attivata, aveva segnalato internamente, era sollecitato. E niente, che internamente non era stato dato seguito alla sua segnalazione. Allora lui ha deciso di andare esternamente, di portare a quel punto di fare una denuncia in procura. Nel momento in cui ha fatto la denuncia in procura, sono iniziate le ritorsioni nei suoi confronti. Ecco, perché il nome è uscito. Ecco, la classica ritorsione, perché lì a quel punto il nome è uscito nel momento in cui va a fare una denuncia in procura. Esattamente. Quello che secondo me è interessante del whistleblowing, ma in Italia siamo ancora indietro. Ad esempio, il caso dell'Agenzia delle Entrate, se si attivano in questo senso, è che il whistleblowing ha una via interna, cioè tendenzialmente bisognerebbe segnalare internamente agli enti, a un organo interno, una figura interna che possa agire efficacemente al riguardo, un po' a prescindere dalla denuncia poi in procura, ecco, nel senso, se internamente viene affrontata una situazione, è chiaro che se poi ci sono delle... questo è un punto interessante, Presidente Cantone, cioè dovrebbe in un mondo ideale risolversi tutto, ci dice Fraschini, all'interno, cioè senza andare né all'autorità anticorruzione né tantomeno alla procura. Ma guardi, la legge questo sostanzialmente prevede, cioè prevede che la segnalazione venga fatta all'interno e che la pubblica amministrazione debba mettere in atto le attività di prevenzione anticorruzione interna. Quindi sostanzialmente deve fare, già questo è quanto prevede la legge. L'attivazione da parte dell'autorità anticorruzione riguarda sempre i presidi amministrativi, quindi noi non interveniamo dal punto di vista penale, ma sempre in via amministrativa. Il tema vero, è che è molto difficile o comunque molto improbabile il caso che un comportamento non integri anche gli estremi penali. Faccio un esempio. Qual è uno dei tipici oggetti di segnalazione? L'utilizzo indebito dei cartellini marcatempo. Sì. Cioè un soggetto, l'assenteismo. Ma non solo l'assenteismo, che di per sé non è necessariamente un illecito penale, ma l'utilizzo indebito dei cartellini marcatempo. Si dice: il mio vicino marca i cartellini di tutto l'ufficio. Questo è un reato. Certo. Questo dovrebbe essere un classico comportamento da dover essere valutato sul piano dell'illecito disciplinare, però è anche un reato, per cui la pubblica amministrazione che si trovi davanti a una segnalazione di questo tipo dovrebbe da un lato attivare i presidi amministrativi e verificare se quel comportamento è avvenuto e mettere in campo le sanzioni disciplinari, ma dall'altro lato non può fare a meno di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica. Ricordiamo che nel nostro sistema c'è un reato che si chiama omessa denuncia di reato, cioè il pubblico ufficiale che viene a conoscenza di un fatto illecito ha l'obbligo, non la facoltà, di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica. E quindi? Questo meccanismo credo che, diciamo, rischi in qualche modo di mettere in crisi il meccanismo del whistleblower, cioè se io sono tutelato in via amministrativa e non ricevo nessuna tutela in sede penale, questo crea dei problemi. Abbiamo previsto un meccanismo che, diciamo, è un piccolo palliativo nei limiti della norma. Quando noi trasmettiamo le denunce di whistleblower che sono arrivate a noi, noi mettiamo una sorta di alert anche alla Procura della Repubblica dicendo attenzione, si tratta di una denuncia per la quale noi tuteliamo la riservatezza ai sensi della norma della legge Severino. È un modo anche per segnalare alle procure di avere maggiore accortezza nella valutazione della indicazione del soggetto, diciamo, che prende la denuncia. Ovviamente le norme del codice procedura penale prevedono che chi vede un fatto, chi dice un fatto diventa testimone, quindi ovviamente non può essere citato. Mi faccia capire, ma sono come quantità, quante sono le denunce che arrivano all'anticorruzione di questo tipo? Ma guardi, c'è stato, non appena noi abbiamo attivato la casella, abbiamo avuto un certo numero di denunce. Adesso il meccanismo si è abbastanza fermato, io credo che noi siamo intorno alle 50-60 denunce, un po' pochine. Alcune interessanti, sì, pochine. Tenga conto però che proprio in questi giorni noi abbiamo fatto delle linee guida che fra l'altro non riguardano solo noi, a cui tutte le pubbliche amministrazioni devono attenersi, che è un modo anche con cui spieghiamo, diciamo, a chi denuncia quale sarà il sistema che noi mettiamo in campo per tutelare le loro denunce. Questo credo possa essere un modo attraverso il quale noi possiamo anche tranquillizzare i soggetti che fanno denuncia. Devo dire, allo Stato non mi sembra che ci sia stato un grandissimo successo. No, un grande successo no. Per concludere, io nel ringraziare Giorgio Fraschini e Raffaele Cantone. Cantone, io dopo la pubblicità tra 4 minuti avrò il presidente della Lombardia Maroni, mancano 60 giorni all'Expo. È tutto sotto controllo dal punto di vista appalti? Beh, qualcosa è stato trovato che non va, ma dobbiamo aspettarci in questi due mesi qualche brutta sorpresa? Io mi auguro proprio di no. Io mi auguro che, diciamo, la situazione dopo il nostro intervento come autorità anticorruzione si sia messa nei binari giusti. I lavori procedono, ci sono obiettivamente una serie di problemi. Noi stiamo lavorando in modo molto molto fervido perché le richieste che arrivano da Expo sono tantissime. Io sono abbastanza ottimista sia sui tempi sia sulla regolarità delle gare. Bene. Ovviamente siamo un po' all'italiana perché adesso, diciamo, si sta correndo tre volte di quanto si è fatto 8 mesi fa e 5-10 volte in più di quanto si è fatto un anno e mezzo, 2 anni fa. Ma questo è un po' un must italiano. Questo non possiamo mai negarcelo. Io intanto vi ringrazio, Raffaele Cantone, presiede l'Autorità Nazionale Anticorruzione, e Giorgio Fraschini, ricordo anche il sito www.whistleblowing.it, ma ripeto, è un po' complicato. Scrivete a noi, 24 mattino è Radio 24 .it e io vi dirò come si scrive. 24 mattino. Eccoci qua, allora sono le 8:39, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora abbiamo parlato con Raffaele Cantone di questa pratica whistleblowing, soffiare nel fischietto, questo in inglese. Ci sono ovviamente varie reazioni, anche messaggi, chi ci dice che in Italia non sarà possibile, che in Inghilterra, ci scrive Gabriella Milano, per esempio, anche i whistleblowers vengono mobbizzati tanto quanto in Italia, basta leggere il Times di 3 settimane fa. Comunque, a dire che la pratica non è molto facile, ma comunque il tema politico del giorno invece è sicuramente ancora il dibattito. Ci sono anche le polemiche dopo la manifestazione della Lega a Roma sabato scorso. Voglio salutare, ne parliamo con uno dei protagonisti che era lì a Roma, vale a dire il presidente della regione Lombardia media. Roberto Maroni, buongiorno Presidente, eccoci qua. Buongiorno. Allora, a tutti, buongiorno. Ha sentito che Berlusconi ha definito estremisti questi toni di Salvini, a lei sono piaciuti i toni? A me sono piaciuti, ha detto le cose che pensano in tanti, le ha dette con il suo stile, diciamo, si può essere d'accordo o meno nello stile, ma sui contenuti, ha parlato di lotta all'immigrazione, ha parlato di lavoro, ha parlato di un'Europa che non dà risposte. Io vorrei che si entrasse nel merito per dire quali delle proposte della Lega non vanno bene a Berlusconi, invece che queste cose così che non hanno alcun senso e che dimostrano anzi di non avere argomenti sui contenuti, che sono quelli che noi interessano. Però voi avete l'obiettivo, era quello della manifestazione, mandare via Renzi. È possibile, ipotizzabile contrastare dal punto di vista dell'elettorato Renzi senza un'alleanza del centrodestra, quindi senza Berlusconi? Ma noi non vogliamo fare l'errore che ha fatto la sinistra per tanti anni, garantendo peraltro poi la permanenza di Berlusconi, e questa è stata una cosa positiva, e cioè essere uniti contro, punto. L'anti-berlusconismo, ce lo ricordiamo, è diventata una categoria politica quasi, no? Era l'unica cosa che teneva insieme il fronte della sinistra, tant'è vero che poi si è visto quando Prodi ha vinto, è andato a governare, è durato poco perché D'Alema e Bertinotti l'hanno fatto fuori, e anche quando ha rivinto nel 2006 con la grande armata Brancaleone unita solo dall'anti-berlusconismo, nel 2006 è durato pochissimo. Noi vogliamo evitare questo, vogliamo costruire un'alleanza ma sui contenuti, non contro Renzi, altrimenti non regge. Però pare che Berlusconi, questa Lega non piaccia alla Lega di Salvini, almeno dalle dichiarazioni, pare che il Messaggero dica è una pazzia, è pazzo, insomma i toni, è un grillo di destra, Forse... Forse c'è un po' di invidia, perché Salvini sta facendo bene, rappresenta un cambio di generazione, aumenta i consensi, molti sondaggisti dicono addirittura che la Lega è davanti a Forza Italia, e forse c'è un pizzico di invidia in questo. Può essere invidia. Ma, al di là di questo, voglio dire, bene, discutiamo, volete l'alleanza con la Lega, sediamoci a un tavolo, vediamo sui contenuti che cosa va bene e che cosa non va bene, e parlare sui giornali è il modo peggiore per risolvere i problemi. Sarebbe in retroscena. Per la verità, il Messaggero dice che Berlusconi avrebbe chiamato o chiamerebbe ogni tanto sia lei che Zaia con l'obiettivo di far ragionare Salvini. Ma è vero intanto che vi sentite o no? Sì, vabbè, ogni tanto ci sentiamo, ogni tanto lo chiamo io quando il Milan vince, cioè pochissimo ormai. Da milanista a milanista, Esatto. No, ma ci si sente, io non dimentichiamo che io governo la più grande e importante regione d'Italia, assieme a Forza Italia e NCD, c'è anche questa anomalia, diciamo così, nell'anomalia del quadro politico italiano, e quindi ci sentiamo per forza perché ci sono tante decisioni da prendere, tante cose importanti. E le dice di far ragionare Salvini oppure no? Ma no, di far ragionare, no, mi esprimono preoccupazione per questa sua posizione e io ribadisco che è una posizione forte e dura che però va, su cui bisogna confrontarci, no? Però forte e dura, Maroni, una cosa che sicuramente ha spiazzato molti è il fatto che ci fossero anche estremisti di destra, Casa Pound, addirittura qualcuno che inneggiava Mussolini nella piazza, saranno stati pochi, ma questa cosa a lei non imbarazza? Ma guardi, la piazza era la piazza, non è che l'abbiamo fatto in un teatro controllando gli ingressi, e chi voleva venire, il tema era Renzi a casa, ok, tutti quelli che sono fuori di Renzi a casa potevano venire e sono venuti, dopodiché non tutti quelli che c'erano in piazza la pensano come noi e viceversa. Però potrebbe arrivare un messaggio politico a dire non vogliamo alleanze con quelli lì. Guardi, a me quello che si scrive sui giornali, commentatori, politologi, mi interessano fino a un certo punto, mi interessa il giudizio dei cittadini, e se la Lega dopo tutte queste vicende è al 16% vuol dire che funziona, no? Il resto sono commenti che rispetto per l'amor di Dio, ma che non modificano una posizione, quella di Salvini che ha aumentato i consensi della Lega come non mai, e questo è il dato di fatto, no? E quindi perché cambiare? Senta Maroni, si è parlato sabato anche di questa vicenda del sai il benzinaio che è in Veneto accusato di eccesso di omicidio, di eccesso di legittima difesa perché ha sventato una rapina, ha ucciso un rapinatore. La Lombardia è la prima regione che ha proposto una legge che prevede di pagare spese legali ai cittadini accusati proprio di questo reato, eccesso colposo di legittima difesa. Perché lo avete fatto? È la prima e unica finora, fa parte di una legge più generale che riguarda la sicurezza e il contrasto alla criminalità, peraltro. Ci sono in questa proposta di legge, che adesso il Consiglio discuterà, anche misure per la gestione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, il sostegno alle vittime della criminalità organizzata. Abbiamo voluto anche dare questo segnale perché noi riteniamo che se qualcuno che difende se stesso, la propria vita, la propria famiglia, i propri beni da una minaccia grave e poi finisce in galera per questo, ecco, questo non è giusto, questa non è giustizia. Abele si trasforma in Caino e la vittima si trasforma in carnefice. Quindi voi volete pagare gli avvocati, cioè la regione che paghi gli avvocati, se passa la legge ovviamente, stanziare un fondo. È un sostegno, è un patrocinio ed è un sostegno, è affermato un principio. Adesso vediamo il Consiglio regionale che discuterà come lo articolerà, però noi abbiamo voluto affermare il principio che quando uno difende se stesso e i propri cari da un'aggressione violenta non può finire in galera, come invece purtroppo sta succedendo. Le chiedo invece, Maroni, oggi è una giornata importante per la Lega, credo alle 13 c'è il Consiglio federale e il tema principale è quello del Veneto. Si può arrivare al commissariamento di Flavio Tosi e dunque a una rottura della Lega? Lei che posizione ha sulla vicenda? No, io spero proprio di no, ho lavorato e lavoro perché non avvenga. Lo statuto della Lega è molto chiaro e dice che quando ci sono elezioni regionali, provinciali, comunali, è la regione che decide, la nazione per noi, cioè la regione, in questo caso il Veneto. Il Veneto è sovrano, il Consiglio federale non può intervenire. Può intervenire a commissariare una segreteria nazionale, cioè quella del Veneto, sì, in questo caso, solo in caso di gravi violazioni dello statuto, che qui mi pare non ci siano. C'è un dibattito che in qualche modo non è certamente positivo, sempre sui giornali ancora una volta, no? Non credo ci siano gli estremi del commissariamento e confido sulla saggezza di chi, Tosi, Zaia e tutti i protagonisti del Veneto, devono avere un unico interesse, no? Quello di vincere le elezioni in Veneto, ecco. Cioè una ricomposizione, spera in una ricomposizione, sì, in una situazione. Mancano due mesi Expo, guardi che prima abbiamo avuto Cantone, prima di lei, e ha detto che lui è moderatamente ottimista, cioè ottimista, ce la si farà, certo si fa un po' l'italiana tutto all'ultimo momento, però ce la faremo, lei che comunque è presidente della regione che ospiterà Expo? Ce la faremo, io alle 13 sono lì appunto a fare un sopralluogo Expo per vedere l'andamento dei lavori e sarò sul ponte all'ingresso di Expo che è già pronto, non a caso è stato fatto dalla Regione Lombardia, quindi quello è già pronto. Non è fatto all'italiana, sempre all'ultimo, a Expo stanno lavorando in tantissimi da tanto tempo, ci sono stati tanti problemi, questo sì, che risolveremo e sono sicuro che il primo di maggio sarà tutto pronto. Ancora due domande, la prima. Ma Milano che vende tutto il cuore immobiliare, cioè i grattacieli di Porta Nuova a un fondo del Qatar, il fondo sovrano. Lei da leghista, ma da governatore della Lombardia, le fa fare qualche riflessione? Sì, una positiva e una negativa. Quella positiva è che riusciamo ad attrarre investimenti dall'estero e questo è un fatto positivo. E quella negativa è che è una zona così centrale, così aperta al futuro, innovativa, non ha trovato acquirenti italiani. Vuol dire che la classe imprenditoriale italiana o non è capace di vedere questa opportunità o è messa proprio male. Visto che sente Berlusconi, ma lo vende il Milano? No, non mi dica che non gliel'ha chiesto, che non ne parlate. Lo vende il Milano? No, l'ho chiesto, mi ha detto di non dire niente. Non posso dire niente, mi spiace, se no tradisco una promessa fatta. Questa è già invece una notizia. Invece se c'è un segreto, che vuol dire che c'è qualcosa sotto, però. Questo lo dice lei. Invece posso dire che sono molto contento dell'idea del Milan di costruire lo stadio lì, sì, al Portello, sì, anche se ci sono delle proteste, come naturale che sia, da parte dei cittadini, sono convinto che sia una cosa buona, io la sostengo. La sostiene, però non ci dice allora del... Però se c'è un segreto vuol dire che qualcosa c'è, dai, Maroni, se no... Sono muto come un pesce. Muto come un pesce, però le ha confidato qualcosa, ecco, qualcosa. Una qualcosa gliela ha confidato, gliel'ha detto se lo vende o no, almeno. Uh-huh. E vabbè. Esatto. Quando scopriremo qualcosa? Ma... dopo la fine del campionato, credo. Dopo la fine del campionato, va bene. E niente, dovremo indagare, Maroni. Intanto esatto. La ringrazio perché secondo me ci ha dato una mezza notizia, mezza. Grazie Roberto Maroni, governatore della Lombardia, per essere stato con noi della Lega. Scopriremo dopo la fine del campionato. Ma cosa avrà detto Berlusconi a Maroni? Adesso questa è la cosa che mi porterò un po' dentro. Dovremo scavare un po'. 24 mattino. Tra l'altro c'è Madonna in Italia. Ciao Italia. Ieri da Fazio si è presentata, pare, con solo 58 persone al seguito, leggevo sulla stampa. Solamente 58. Non ha fatto bizze. Ha chiesto solo del vino rosso. Ecco, vi interessa molto. Posso andare avanti se volete. In prima pagina della stampa ci sono tutti i dettagli dello sbarco di Madonna in Italia. Ma come sapete, qui invitiamo ascoltatori che ci seguono con passione dall'estero. Ci scrivono a 24 mattino è radio24.it e oggi voglio salutare Stefano. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Come va? Dove sei intanto? Sono ad Amsterdam in questo momento. Ah, che bello. Perché sì, giri in questo momento? Perché ti muovi? Perché tra due settimane sarò a San Francisco da finanziatori. Sono qui perché abbiamo aperto una startup qui, abbiamo trovato un acceleratore che ci ha incubato. Che bello, startup di che? Startup Intellig, una startup che crea prodotti per le energie rinnovabili, prodotti software. Uh-huh. E avete trovato finanziatori, avete trovato qualcuno che crede in voi? Sì, abbiamo trovato il primo finanziatore che è Rockstart, un acceleratore basato ad Amsterdam. Mm-hmm. E presenteremo poi ai finanziatori il 30 aprile a un demo day ai finanziatori che vengono. Fantastico. Poi a San Francisco, questo è il mondo globale. A Shanghai, no? Giulio a Shanghai. Capito, no? Perché noi ci guardiamo sempre l'ombelico, ma il mondo va così. Ma senti un po', ma ad Amsterdam ci sono ancora le polemiche lì in Olanda per la vicenda Rotterdam, il Feyenoord, l'Italia? Sinceramente, se non me lo dicevano gli amici dell'Italia, qui non avevo sentito niente. Niente. Vabbè, ma i giornali ne hanno parlato, i giornali, però no, hanno devastato mezza piazza a Roma. Sì, lo so, però la gente a quanto pare è passata abbastanza in sordina. È fantastico. Stefano, dimmi, perché siamo in chiusura, che cosa vuoi dare come messaggio all'Italia e agli italiani lì da Amsterdam o da Shanghai o da San Francisco? Agli italiani che si hanno idee buone, se hanno idee che vogliono provare a sviluppare, di muoversi, di non rimanere fermi, di muoversi, uscire, andare a cercare le occasioni da altre parti. Oh, questo è il poi messaggio. Possono tornare in Italia, sì, però più ricchi intanto di esperienze, non solo più ricchi di esperienze. Esattamente. Stefano, io ti ringrazio e ti mando un grosso abbraccio da te a tutta Amsterdam, città meravigliosa, e a tutta l'Olanda. E noi vi invitiamo a scriverci 24 mattino e Radio 24.it e a ritrovarci domani alle 6.30 puntuali. Sons of Liberty dal 3 marzo ogni martedì alle 21 su History, canale 407 di Sky. Vi ha presentato 24 mattino.